Ottimo! La vostra fiamma magica parte da 300 gradi e aumenta di 200 gradi al secondo. I rami bruciano solo a partire da 1100 gradi, ma se la temperatura supera 1300 gradi, si inceneriscono. Per quanti secondi dovreste applicare la fiamma per accendere il fuoco senza distruggere la legna?